io conosco non ha voce ma suoni e colori, a fiumi di lacrime e risa fragorose, a sogni grandi ed un occhio alla morte, alla morte. E viva il poeta, e viva il poeta morirà, e viva il poeta col suo canto triste, e viva il poeta ci salverà. L'uomo che io conosco è sempre in movimento, il tempo è il suo padrone e il denaro è il suo cibo. La donna che io conosco è la costola incorruttibile, anche se ha colto la mela per il serpente che ancora c'è. La porse all'uomo che l'ha mangiata e adesso è quello che è. Triste, viva il poeta, ci salverà. Poeta, ci salverà.